omicidio a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, sparano due colpi in testa ad un 17enne. È grave. Scattano a Sochi le misure di sicurezza volute da Putin per contrastare il terrorismo ad un mese dalle Olimpiadi invernali. 30.000 poliziotti, monitoraggio dal cielo, impossibile entrare nella zona con l'auto senza un permesso. I genitori devono poter dare ai figli il solo cognome della madre, a stabilirlo la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, dando ragione ad una coppia di Milano. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo che se volete potete commentare su Twitter con l'hashtag Effetto Giorno oppure via SMS al 349-238-6666. Apriamo questa trasmissione, questa puntata, dopo il ritorno dalle ferie e dalle vacanze estive, con la politica e con una settimana che si apre importante per molti motivi. Il patto di governo e il tema della legge elettorale sullo sfondo. Torneremo a parlarne poi più avanti nel corso della trasmissione e ci collegheremo con la responsabile riforme del Partito Democratico. Iniziamo però dalla cronaca di questi, anche di questi ultimi minuti, con la nostra Alessandra Schepisi in diretta da Roma. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Così riprendono i lavori parlamentari e contemporaneamente riparte l'agenda di governo. Una settimana di incontri all'interno della maggioranza, ma anche di contatti tra le varie forze politiche. Da un lato il premier Letta, che punta a chiudere entro 20 giorni con la maggioranza il patto di coalizione per il 2014, un'agenda condivisa sugli impegni per il prossimo anno, e nel pomeriggio di oggi partono le consultazioni formali con Scelta Civica, perché l'obiettivo è di arrivare con le carte in regola il 29 gennaio all'appuntamento con la Commissione europea. Per questo Letta rinvia anche il vertice intergovernativo italo-turco del 17 gennaio. E poi dall'altra parte Matteo Renzi, che incalza i partiti sulla legge elettorale, aspetta entro questa settimana una risposta sulle tre proposte di riforma, modello spagnolo, Mattarellum corretto e modello dei sindaci, così da arrivare entro fine mese al primo voto di Montecitorio. Ma su questo tema ci sono ancora frizioni. Il modello spagnolo è caldeggiato da Forza Italia ma bocciato invece dal nuovo centrodestra, che prende tempo. A poco fa Renato Schifani ha detto: è prematuro parlare di modelli perché sulla riforma elettorale occorre attendere le motivazioni della Consulta, ma da domani potrebbero partire già incontri tra il PD e gli altri partiti. Renzi però non pensa solo alla riforma elettorale, lavora anche al Job Act, la riforma del lavoro, e di questo ha parlato questa mattina a Firenze durante l'inaugurazione di Pitti Immagine Uomo. Sentiamo la sua voce. Noi crediamo che nell'arco del 2014 sarà bello, credo sarà fondamentale poter partire con un disegno di puzzle complessivo dove la cornice è la legge elettorale, i tagli della politica, tutte cose che sono assolutamente fondamentali per recuperare credibilità, che sono però il contorno, e quando nel puzzle inizi a mettere i pezzi hai bisogno di fare una cornice. Dentro il succo è esattamente un'idea, noi l'abbiamo definita di Jobs Act, cioè un'idea d'Italia dei prossimi anni. Il Jobs Act non è soltanto, come è stato negli ultimi anni, la discussione sull'articolo 18. Jobs Act che Renzi punta a definire entro il 16 gennaio, quando ci sarà la direzione del partito. E da Roma è tutto. E a proposito della direzione del Partito Democratico, restano abbastanza forti le tensioni all'interno del PD dopo le dimissioni del viceministro all'economia Stefano Fassina. Fassina, che è intervenuto questa mattina a Mix24, intervistato da Giovanni Minoli, sentiamo che cosa gli ha detto. Lei, dimettendosi, ha detto: l'obiettivo di Renzi è Letta, non sono io. Cioè ho posto un problema di ambiguità della posizione della segreteria del Partito Democratico rispetto al governo Letta, che quindi il governo presieduto da chi fino a pochi mesi fa era il vice segretario del Partito Democratico. Certo, ecco, quindi lei col suo gesto, per dirla semplicemente, vuole rendere esplicito lo scontro fra Renzi e Letta, è così? No, io vorrei che ci fosse un chiarimento definitivo, perché, come ho detto in questi giorni, non solo è legittimo, ma è doveroso che un segretario che è stato eletto con una così larga partecipazione, con una così larga maggioranza, chieda una svolta nell'iniziativa del governo. Certo. Altro è la caricatura distruttiva quotidiana che ricorda appunto il Berlusconi con gli ultimi mesi del governo Monti. Il punto di Stefano Folli. L'abbraccio corale a Bersani da parte di tante persone, non solo amici e avversari, insegna due cose. La prima è che in tali circostanze ci si accorge di quanto sia falso il cliché secondo cui la politica è solo malversazione e gli uomini politici solo maneggioni. Non è così naturalmente, e il dramma umano di un uomo onesto lo dimostra in modo perentorio. La seconda è che il Partito Democratico è sempre più stretto nelle sue contraddizioni. Bersani è il simbolo della stagione passata, prima di Renzi. Il dimissionario Fassina è l'emblema di un'idea del partito e delle politiche economiche molto diversa da quelle del neo segretario. Comporre sensibilità differenti non è impossibile, ma richiede una capacità di tessitura a cui Renzi non sembra interessato. Tuttavia la prospettiva di una leadership tutta personale, al di là dei vecchi partiti e del tutto trasversale nell'opinione pubblica, richiede fuochi artificiali continui e un successo dietro l'altro, anche sul piano elettorale. Non è una strategia che contempli fasi di stanca e insuccessi, e questa invece è una stagione che richiede infinita pazienza e capacità di costruire. E veniamo all'agenda economica adesso, agenda economica che si compone di molte cose, tra cui la famosissima spending review, la revisione della spesa, nella quale potrebbero entrare anche degli interventi dal lato delle pensioni. Ci colleghiamo con Marco Rogari, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno agli ascoltatori. Che tipo di intervento si sta immaginando? Beh, il commissario straordinario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, ha sempre parlato di un possibile intervento sulle pensioni d'oro e d'argento, così lui le ha definite, che tradotto, diciamo, in termini un po' più operativi significherebbe intervenire su quegli assegni previdenziali ancora di tipo retributivo, cioè quelli che sono ancora agganciati alla retribuzione e non solo ai contributi come prevede ora la riforma Fornero, e anche alle pensioni di reversibilità coinvolte in questo passaggio appunto al metodo contributivo. Su questo c'è un tavolo, è uno dei 25 tavoli insediati da Contarelli e ci stanno, gli esperti stanno lavorando. Marco, sono circolate anche delle ipotesi di altre modifiche alla riforma delle pensioni che possano prevedere, che riguardino anche i lavoratori che avremmo chiamato esodati fino a qualche tempo fa, ossia la possibilità che questi ottengano una sorta di prestito che poi viene restituito con la pensione. Quanto c'è di vero in tutto questo? Sì, questa è un'idea lanciata dal ministro del lavoro Giovannini, tra l'altro in un'intervista al nostro giornale di qualche mese fa, per la prima volta al Sole 24 Ore Giovannini aveva detto che insomma stava pensando a un meccanismo che potesse favorire l'uscita di chi perde il lavoro ed è vicino comunque i requisiti di pensionamento, sostanzialmente anticipando l'importo, una parte dell'importo della pensione che avrebbe percepito più tardi, quindi qui l'idea del prestito. Ora su quest'idea si sta tramutando in misure vere e proprie che non sono state ancora del tutto confezionate, ma che sono in uno stato più avanzato. Naturalmente nel momento in cui saranno pronte e affinate, Giovannini dovrà avere un confronto con le parti sociali e con i sindacati in particolare. Grazie a Marco Rogari del Sole 24 Ore. I dettagli su questo possibile intervento sulla spending review e molto altro li trovate sul quotidiano Oggi in Edicola. Noi passiamo a parlare della cronaca, parliamo del delitto di Caselle, dove sono stati uccisi a coltellate un uomo, una donna e la madre di lei 93enne. L'interrogatorio del figlio della coppia è durato a lungo, l'uomo sembra aver chiarito, ma ora è tutto nelle mani della scientifica. Da Torino Filomena Greco, buongiorno. Sì, buongiorno a te. Sarà proprio l'autopsia che dovrebbe essere assegnata domani ad aggiungere eventuali particolari a questo triplice omicidio di Caselle Torinese e possibili tracce per risolvere questo rebus che è apparso sin da subito come un delitto misterioso. Quindi alla ricerca di particolari, di tracce, a cominciare dall'orario della morte delle tre persone, la dinamica dell'aggressione, le caratteristiche dell'arma utilizzata per uccidere la famiglia Lione. La domenica scorsa, dopo il ritrovamento dei cadaveri, domenica mattina, lo ricordiamo, ricordiamo, di Claudio Aglione, della moglie Mariangela Greggio e della suocera Emilia Campodall'Orto, gli inquirenti stanno ascoltando testimoni, conoscenti, persone anche in questa mattina, che potrebbero fornire dati utili alla ricostruzione delle ore del delitto che probabilmente si è consumato fra venerdì sera e sabato mattina. Non sarà invece riascoltato in giornata il figlio delle vittime, sentito, come ricordavi tu, dagli inquirenti per molte ore fino alla notte di domenica scorsa. Per ora non ci sono però ancora iscritti nel registro degli indagati. Oggi sono tornati nella villetta i carabinieri dei Resti di Parma per un nuovo sopralluogo, nuovi rilievi dunque dopo quelli fatti già ieri pomeriggio. Vediamo però quali sono i dati certi di questo delitto. Non sono tantissimi, le tre vittime sono state uccise con numerosi colpi di arma da taglio, i corpi sono stati ritrovati in casa soltanto domenica mattina dopo l'allerta lanciata dal figlio delle persone uccise. I vicini hanno riferito di questo portone del garage rimasto stranamente aperto per un paio di giorni, infine due cani ritrovati chiusi nel sottoscala. Probabilmente però, riferiscono questa mattina i carabinieri, si trattava di una prassi consolidata, quella di tenere al chiuso i due cani durante la notte, ma anche questo naturalmente resta un aspetto da verificare lì nello studio. Grazie Filomena Greco, e seguiremo naturalmente nel corso della giornata nei nostri giornali radio gli aggiornamenti su questa vicenda. Noi restiamo alla cronaca con una storia che arriva dalla periferia di Roma, Torbella Monaca, dove hanno sparato ad un ragazzo di 17 anni che ora è grave. Il quartiere è al centro di una serie di cronache. Qualche settimana fa i carabinieri hanno arrestato tre pusher, dei quali il più avanti con l'età aveva 19 anni. Sempre là e sempre per droga è finito in manette un 21enne cantante neomelodico napoletano, Giuseppe Tomasello. In una rissa appena 7 giorni fa sono rimaste ferite 3 persone. Ma sentiamo innanzitutto il servizio sull'ultimo fatto di cronaca. Ricoverato in prognosi riservata il 17enne ferito ieri sera in una sparatoria nella zona di Torbella Monaca, periferia est della capitale. Colpito alla testa da 2 proiettili di pistola è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata verso le 11 di ieri sera. È in condizioni critiche e i medici per il momento hanno deciso di non operarlo. A chiedere i primi soccorsi era stata una donna che lo aveva trovato esanime in strada in una pozza di sangue. Il giovane era senza documenti e per identificarlo è voluta qualche ora. A piccoli precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Sull'agguato stanno indagando i carabinieri della compagnia di Frascati. Si pensa ad un regolamento di conti per droga. Gli investigatori stanno anche esaminando le immagini riprese da alcune telecamere a circuito chiuso della zona alla ricerca di elementi utili per identificare gli autori della sparatoria, della quale per ora non ci sarebbero testimoni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I controlli a tappeto sono in corso a Napoli per risalire ai 3 uomini protagonisti della sparatoria nella quale la scorsa notte sono rimasti feriti 2 poliziotti. Le ricerche condotte dagli uomini della squadra mobile del commissariato di Poggio Reale sono concentrate soprattutto nella zona orientale della città dove è avvenuto l'episodio. 4 bossoli trovati, il proiettile che ha ferito i 2 poliziotti è lo stesso che ha colpito di striscio al braccio uno dei 2 per poi conficcarsi nel fianco del collega che era alla guida. All'estero, come da attese, con 56 voti a favore e 26 contrari, il Senato americano ha dato il via libera definitivo alla nomina di Janet Yellen a futura presidente della Federal Reserve. Attualmente numero 2 della banca, succederà Ben Bernanke, il cui secondo e ultimo mandato terminerà il 31 gennaio prossimo. Di Stati Uniti e soprattutto dell'ondata di freddo che li ha colpiti torneremo a parlare tra poco con Mario Platero in America 24. Adesso ci spostiamo a Sochi, in Russia, dove scattano oggi le stringentissime misure di sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali. Nel giorno del Natale ortodosso in Russia è iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali, che inizieranno esattamente tra un mese. E questo per Sochi e i suoi abitanti significa che da oggi una morsa di ferro proteggerà la città e i distretti che ospiteranno i giochi. Il cluster sul mare per l'inaugurazione e il patinaggio e quello di montagna a Krasnaya Poliana per le gare di sci. Massima allerta fino al 21 marzo, più di 30.000 agenti delle forze di sicurezza in condizione di prontezza operativa a difesa degli impianti. Nella fascia costiera di Sochi la circolazione sarà rigidamente controllata, impossibile entrare in auto private per i non residenti. I controlli si estendono al mare, allo spazio aereo e naturalmente alle telecomunicazioni con i servizi segreti incaricati di non farsi sfuggire nessun messaggio sospetto telefonico o digitale. Se da Monaco 1972 la sicurezza è al centro delle preoccupazioni di ogni Olimpiade, i due attentati di Volgograd a fine anno hanno ricordato a tutti quanto sia concreto l'allarme terrorismo nel Caucaso. E Vladimir Putin, che ha celebrato il Natale proprio nella nuova cattedrale di Sochi, sa che nel successo di queste Olimpiadi, che ha voluto a ogni costo, si gioca tutto e davanti al mondo. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I genitori devono avere il diritto di dare ai figli il solo cognome materno. Lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che oggi ha condannato l'Italia per aver violato i diritti di una coppia di coniugi milanesi, avendogli negato la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre, appunto, invece di quello del padre. Nella sentenza, che diverrà definitiva fra 3 mesi, i giudici indicano che l'Italia deve adottare riforme legislative o di altra natura per rimediare alla violazione. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Cantiere del governo aperto, Letta lavora sul patto di coalizione col nuovo centrodestra e Scelta Civica e ha rinviato un vertice previsto in Turchia tra 10 giorni. Renzi preme per la legge elettorale, il modello spagnolo crea tensioni all'interno della maggioranza. Gli investigatori sono al lavoro nella casa di Caselle Torinese, dove sono stati uccisi un uomo e 2 donne. Regge al momento l'alibi del figlio, che sembra aver chiarito. La scientifica cerca tracce. Molti arresti per droga nelle settimane scorse, oggi un tentato omicidio a Torbella Monaca, periferia di Roma. Sparano 2 colpi in testa ad un 17enne che è grave. Tra poco ci collegheremo con il presidente del municipio di Torbella Monaca per capire com'è la situazione nella zona. Sono scattate a Sochi, lo avete sentito, le misure di sicurezza volute da Putin per contrastare il terrorismo ad un mese dalle Olimpiadi invernali. 30.000 poliziotti, monitoraggio dal cielo, impossibile entrare nella zona con l'auto senza permesso. Appena battuta dalle agenzie, l'inviato speciale del governo per la crisi dei Marò, Staffan de Mistura, è arrivato oggi a Nuova Delhi per una nuova missione. Domani ci sarà una nuova udienza fissata da un giudice speciale nella capitale indiana e una possibile presentazione dei capi d'accusa da parte della polizia inquirente nei confronti di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. E ora riprendiamo il tema della politica, una risposta innanzitutto ad un'ascoltatrice, Luisa da Cagliari, che via SMS ci dice: che ne pensate del fatto che in Sardegna i 5 Stelle non hanno presentato una lista per le elezioni regionali che si svolgeranno il 16 febbraio? Cara Luisa, non ne pensiamo niente perché siamo giornalisti, le posso dire che abbiamo chiesto un'intervista a qualche deputato del Movimento 5 Stelle che... di origine sarda, tra le deputate della Sardegna, ci è stato risposto: stiamo aspettando un tweet di Grillo, quindi rimaniamo qua appesi ad aspettare il tweet di Beppe Grillo. Maria Elena Boschi, responsabile riforma del Partito Democratico, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. Ma lo sa che se si converge sul modello spagnolo si rischia una crisi di governo? Io non credo, chiaramente è troppo presto per dire che convergeremo sul modello spagnolo, è una delle 3 proposte avanzate dal Partito Democratico agli altri partiti, alle altre forze presenti in Parlamento, aspettiamo di vedere quello che accadrà negli incontri bilaterali che ci saranno nei prossimi giorni, è ancora troppo presto. Io credo però che non possa venire meno la fiducia nel governo, il lavoro che stiamo facendo al governo per una legge elettorale che può piacere un po' meno ad alcuni partiti. Ho capito, però il nodo politico resta, Boschi, no? Insomma, lo comprende, ce l'avrà ben chiaro anche lei. Se si converge su un modello che piace al Partito Democratico e piace a Forza Italia, chiaramente il nuovo centrodestra la tentazione di sfilarsi dall'esecutivo la potrebbe avere ben forte. Io non credo che il nuovo centrodestra farà venire meno il proprio appoggio al governo per una legge elettorale che potrebbe non andare incontro ai loro desiderata, diciamo così, anche perché la legge elettorale si fa nell'interesse dei cittadini, si fa nell'interesse del paese, non di un partito piuttosto che di un altro. Noi dobbiamo avere innanzitutto una legge elettorale nuova nel più breve tempo possibile e su questo deve esserci il massimo impegno da parte di tutti i partiti politici. E poi deve essere una legge elettorale che consenta a chi vincerà le elezioni di poter governare, avere certezza sul risultato il giorno stesso delle elezioni, cioè i cittadini devono scegliere chi li governa e poi riavvicinare appunto elettorato e eletti. Da questo punto di vista abbiamo presentato tre modelli che consentono di raggiungere questi risultati, per noi imprescindibili, perché comunque ci è stato affidato un mandato anche dalle primarie, dal nostro elettorato. Vediamo quale sarà il modello che avrà il più ampio consenso possibile. Quando contate di chiudere, Boschi? Beh, io conto di chiudere l'esame alla Camera entro la fine di gennaio, inizio di febbraio, perché chiaramente per noi diventa fondamentale rispettare questa tempistica, perché poi chiaramente sappiamo bene che fin tanto che nel nostro paese ci sarà il bicameralismo perfetto, poi ci sarà un passaggio al Senato che potrebbe modificare la legge e quindi rimandarla alla Camera. Per noi il termine ultimo è maggio per arrivare all'approvazione definitiva, quindi dobbiamo accelerare. Gennaio è il mese decisivo. Quindi gennaio è il mese decisivo, per la legge elettorale. Senta, io ho un'altra domanda che io capisco che questo paese è un po' strano, no? Però il punto è questo: ragionando in maniera più ampia di riforme, nella mia testa e forse anche nella testa di molti costituzionalisti, il processo dovrebbe essere questo: si fa prima la riforma dell'articolo del titolo quinto della Costituzione, che riguarda insomma il federalismo, no? Dopodiché si trasforma il Senato in un Senato delle autonomie e solo dopo si fa una legge elettorale che deve tener conto del fatto che il Senato è un Senato delle autonomie, o no? Ma in realtà io credo che sulla legge elettorale abbiamo aspettato fin troppo, quindi cambiamo subito la legge elettorale e rispettiamo l'impegno che abbiamo preso di fronte ai cittadini, non soltanto con le primarie di dicembre, ma già prima, nella scorsa campagna elettorale, tutti i partiti hanno detto: questa è l'ultima volta che andiamo a votare con questa legge elettorale. Una spinta ulteriore ci è arrivata dalla Corte Costituzionale, quindi dobbiamo assolutamente accelerare sulla legge elettorale. Dopodiché, se riusciremo, come io mi auguro, a modificare la Costituzione e quindi a trasformare il Senato in Camera delle Autonomie e io mi auguro anche a rivedere il titolo quinto, al termine di questo percorso eventualmente modificheremo nuovamente la legge elettorale, ma intanto dobbiamo avere una legge elettorale che sia in grado di funzionare fin da oggi, nell'ipotesi, che chiaramente io non mi auguro, di tornare al voto prima di aver completato il percorso di riforme costituzionali che richiedono tecnicamente tempi molto più lunghi. Ecco, questo è uno snodo centrale, ma una nuova legge elettorale non chiama elezioni subito? A mio avviso no, questo sicuramente non è l'obiettivo del Partito Democratico. La legge elettorale deve essere riformata perché quella che abbiamo attualmente non funziona, soprattutto ormai è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, quindi dobbiamo avere una nuova legge elettorale nell'interesse dei cittadini e soprattutto per rispettare gli impegni presi, che credo sia il primo obiettivo che deve porsi chi fa politica. Dopodiché la legge elettorale non comporta necessariamente tornare a votare, altrimenti quale sarebbe il momento giusto per poter modificare una legge elettorale? Non si potrebbe mai cambiare se tutte le volte uno dovesse vedere nello sfondo nuove elezioni. A maggior ragione a inizio legislatura, come in questo caso, può esserci la condivisione delle regole del gioco in modo ampio. Non si torna a votare se il governo, insieme al Parlamento e grazie al Partito Democratico in modo particolare, riesce a mantenere gli impegni presi, riesce a dare risposte concrete ai cittadini. Ultime due domande brevissime. Allora, la prima è sempre sulla legge elettorale. È il presidente del Nuovo Centrodestra, Renato Schifani, dice: mi sembra prematuro parlare di modelli, però se volete chiudere entro gennaio di modelli toccherà parlare abbastanza rapidamente, no? Esatto, io credo che in realtà abbiamo avuto molto tempo per riflettere su modelli nuovi di legge elettorale, perché il porcellum è da anni che deve essere cambiato, è da anni che se ne discute e soprattutto il presidente Schifani sa bene che prima di essere trasferita alla Camera la legge elettorale per mesi è stata in discussione al Senato anche in questa legislatura, quindi sono state fatte audizioni, sono stati fatti approfondimenti, io credo che ci sia stato tutto il tempo anche per il Nuovo Centrodestra per elaborare una propria proposta, quindi adesso è il momento di passare ai fatti. L'ultima domanda che le faccio, non posso esimermi, è sul suo partito, su queste dimissioni del vice ministro Fassina, che insomma, che effetto le ha fatto, come le giudica? Ma a me dispiace molto che il vice ministro si sia dimesso, ma mi dispiace perché lo ha fatto rispondendo a delle logiche, a delle dinamiche politiche per me vecchie e superate. Lui stesso ha chiarito che si è dimesso per, diciamo, fare da guida probabilmente ad una opposizione interna al Partito Democratico. Io credo che sia veramente un modo vecchio, che io non condivido, di intendere l'impegno politico. Si fa politica nell'interesse dei cittadini, come servizio ad una comunità. Quindi, in un momento di difficoltà per il paese, probabilmente un viceministro non rinuncia ad un incarico così importante per motivazioni legate a dinamiche interne. Dopodiché io penso che la responsabilità del Partito Democratico sia dare risposte ai cittadini. Quindi, a prescindere dalle dimissioni del viceministro, sarà importante, saremo giudicati per il piano del lavoro che presenteremo, se saremo in grado di creare nuovi posti di lavoro, se saremo in grado di abbassare la pressione fiscale, se saremo in grado di modificare la legge elettorale in tempi brevi, se finalmente metteremo mano alle riforme costituzionali che aspettiamo da anni. Per questo verremo valutati, e questo è quello che ci chiedono di fare i cittadini. Grazie a Maria Elena Boschi, responsabile di riforma del Partito Democratico, e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E saluto Marco Scipioni, presidente del municipio Roma 6, del sesto municipio di Roma delle Torri. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Perché la chiamiamo? La chiamiamo perché il suo municipio è quello nel quale rientra Tor Bella Monaca, dove questa notte un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito, è finito sotto i ferri con due colpi di pistola. Questo si aggiunge ad una serie di altri elementi di cronaca che sono arrivati nelle scorse settimane. L'arresto di tre persone per spaccio di droga, di cui il più grande aveva 19 anni, un altro arresto per droga di un 21enne, un cantante neomelodico napoletano, Giuseppe Tommasello, una rissa. Che cosa sta succedendo? Succedendo quello che oramai succede da molti anni in un quartiere, diciamo, giovane, su un territorio di una, oramai la 14ª città d'Italia, che verte su 150.000-300.000 persone, con la popolazione più giovane di Roma, dove chiaramente mancano molti servizi e soprattutto manca il problema di un'occupazione. Mi scusi Scipioni, però detta così sembra che è la gioventù che porta questo. Non è la gioventù, chiaramente è un quartiere, diciamo, storico, che piazza Bologna, con popolazione. Allora, Scipioni, la fermo perché abbiamo un audio indecoroso, probabilmente non le prende bene il cellulare, adesso magari la facciamo richiamare, intanto noi ci prendiamo una pausa, andiamo a vedere se riusciamo, se siamo in grado di fare gli aggiornamenti di borsa, vediamo di recuperare la linea con lei, magari appunto con un telefono fisso se lo riesce a rimediare. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Letta al lavoro sul patto di coalizione con Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, sullo sfondo la pressione di Renzi per la legge elettorale, il modello spagnolo crea tensioni. Investigatori al lavoro nella casa di Caselle torinese, dove sono stati uccisi un uomo e due donne. Regge al momento l'alibi del figlio, la scientifica cerca tracce. Scattate a Sochi le misure di sicurezza volute da Putin per contrastare il terrorismo ad un mese dalle Olimpiadi invernali. 30.000 poliziotti, monitoraggio dal cielo, impossibile entrare nella zona con l'auto senza un permesso. I genitori devono poter dare ai figli il solo cognome della madre, a stabilirlo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, dando ragione ad una coppia di Milano. E siamo al momento dei mercati. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cuore Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, giornata positiva, FTSE Share più 0,92%, FTSE MIB un punto percentuale di guadagno, in un quadro complessivamente positivo per l'Europa, con Francoforte che guadagna lo 0,65%, Parigi lo 0,43% e Londra altrettanto. Come mai Milano va meglio delle altre? Sì, le borse hanno accelerato nella seconda parte della mattinata, trainate dal settore bancario che pesa particolarmente sul listino milanese. Piazza Affari è stato favorito anche dal calo dello spread a 198 punti base, forti rialzi quindi per la Popolare di Milano più 5%, Popolare Emilia Romagna più 4,6%, Banco Popolare più 3,3%, Intesa San Paolo più 3,1%. Già ieri gli istituti di credito avevano vissuto una giornata tutta a rialzo. Quindi bene gli istituti di credito complessivamente. Altre storie da segnalare oggi? Ma oggi in evidenza Telecom fa più 2,8% dopo che ieri Telefonica ha escluso coinvolgimenti in qualsiasi operazione su Team Brasil. Il titolo oggi viene favorito da indiscrezioni di stampa sull'apertura dei soci della holding Telco a un cambio di governance che vada incontro alle richieste dei soci di minoranza usciti sconfitti dall'assemblea di dicembre. Questo per quanto riguarda Telecom. C'è anche Unipol Sai, insomma, sì, il Unipol titolo è un andamento... nato dalla fusione, diciamo che ieri ha debuttato in borsa, no? Ieri ha debuttato con una giornata che è terminata praticamente invariata. Oggi un andamento altalenante, è passato da un rialzo del 2,5% in apertura a una flessione del 3,5% a metà seduta. La flessione giunge malgrado oggi in un'intervista al Sole 24 Ore l'amministratore delegato Carlo Cimbri annunci un 2013 oltre le previsioni, sono probabilmente realizzi. Euro che quota 1,3641 contro dollaro. Grazie Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Grazie. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, nell'attesa di ricollegarci col presidente del sesto municipio di Roma, ci sentiamo il viaggio che stiamo conducendo questa settimana, che sta realizzando il nostro Dario Ceccarelli, verso l'Expo del 2015. Oggi la seconda puntata. Eccoci qua, nella seconda puntata del nostro viaggio, a 479 giorni dall'apertura di Expo 2015, entriamo nella grande sfida dell'esposizione. Nutrire il pianeta, energia per la vita, che vuol dire si può dare a tutta l'umanità un'alimentazione sana, sufficiente e sostenibile, e si può farlo nutrendo un pianeta finora sempre saccheggiato, che dà evidenti segni di stanchezza. Carlo Petrini, il padre di Slow Food, tornato al capezzale di Expo, non ha dubbi. È il più grande campo da arare per l'aumento demografico e per risolvere il problema della fame è quello dello spreco. Noi produciamo in questo momento cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 7 miliardi, 1 miliardo soffre di malnutrizione e di fame, siamo attorno al 40-45% di spreco. Prima di implementare la produzione bisogna ridurre lo spreco. Qualcuno obietta, è un bel tema, ma che vola troppo in alto per un paese stremato dalla crisi e dalla disoccupazione. Petrini risponde così. Sensibilità come quelle che abbiamo sentito a questo tavolo non ci sarebbero state 10 anni fa se questa crisi non ha, come ha in questo momento, la capacità di mettere in discussione paradigmi vecchi che non stanno più in piedi. Paradigmi vecchi, dice Petrini, anche il governo, con la voce del sottosegretario alle politiche agricole Maurizio Martina, assicura il suo appoggio. Ci siano le condizioni perché l'Italia assuma un'iniziativa diplomatica internazionale verso Expo che metta a fuoco alcuni dei grandi temi, questa discrasia incredibile tra obesità e malnutrizione, il grande tema del disequilibrio tra produzione agricola e domanda agricola. Una grande sfida quindi, ma è proprio nei momenti difficili che bisogna dare grandi risposte. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci di nuovo con Marco Scipioni, presidente del sesto municipio di Roma, per parlare di Torbella Monaca. Adesso la sentiamo bene, mi faccia sentire un po'. Sì. Ecco, sì, sì, sì, non eccellentemente, però abbastanza bene. Allora, eravamo rimasti su questo. Lei diceva è un quartiere molto giovane, questo sembrava quasi dire è quasi normale che si verifichino problemi di questo tipo. No, lascio neanche intravedere questa situazione. Io ho detto soltanto che siamo alle prese di un territorio nato in modo spontaneo e che consta 250.000-300.000 persone, con la popolazione più giovane di Roma. Io questo ho detto, dove mancano molti servizi, manca soprattutto il lavoro, e chiaramente poi ci sono fenomeni estremi come quello come quelli che lei ha citato, come quello che lei ha citato precedentemente. Di cosa c'è bisogno, Scipioni? C'è bisogno di portare servizi, soprattutto servizi ai ragazzi, perché necessitano in maniera pazzesca che lo Stato sia più vicino, le istituzioni siano più vicine, perché molti si sentono veramente abbandonati, e poi si dia un'alternativa di lavoro, tant'è che noi abbiamo presentato qui due progetti importanti per dare lavoro e occupazione, riqualificare questi territori che ne hanno molto bisogno, come tutte le periferie di Roma, che devono diventare centralità urbane. Non può essere più così alla periferia. E poi chiaramente fenomeni che lei citava chiaramente si possono combattere soltanto così, portando servizi e creando occupazione. Altrimenti è retorica, ci si preoccupa di questi quadranti soltanto quando poi ci sono cose non arrabbiabili come quelle che lei ha citato. L'attuale amministrazione, posto che se non erro è del suo stesso colore politico, e quindi insomma non so che cosa si potrà dire su questo, le sembra che ma stia dando... Non è un problema. No, ma le sembra che stia dando... Sì. Chiudo la domanda. Le sembra che stia dando abbastanza attenzione alla zona? Io credo che bisogna darne molto di più. Perché, guardi, io lavoro in sanità e quindi ho un concetto molto semplice. Come quando lei va in un pronto soccorso, c'è il triage. Dove c'è più bisogno, bisogna dare di più. Questo è un concetto di sussidiarietà che deve essere chiaro a tutti gli amministratori di destra e di sinistra. Questo è un territorio nato velocemente, che ha molti bisogni, dove c'è stata un'organizzazione massiccia, anche molto c'è stata molta speculazione, e a questo punto l'amministrazione, di qualsiasi colore, deve recuperare quello che fino ad oggi è mancato. Un'ultima nota di cronaca, Scipioni, sa come sta il ragazzo? Il ragazzo non... sono venuto adesso dal PTV, ho fatto un salto prima, e insomma la situazione sembra drammatica, insomma, da quanto mi dicono. Ci sono poche speranze. Su questo c'è molto riservo, anche sul ragazzo stesso c'è molto riservo. Io ho chiesto anche le forze dell'ordine, sono in riservo più assoluto. Grazie a Marco Scipioni, presidente del Sesto Municipio. Buona giornata. Arrivederci. A 3 anni andiamo all'estero dalla rivoluzione dei Gelsomini, la Tunisia segna una svolta nel mondo arabo per i diritti delle donne. Con 159 voti favorevoli sui 169 votanti dell'Assemblea Costituente, l'uguaglianza dei tunisini e delle tunisine di fronte alla legge è entrata nella Costituzione di quella che è stata a tutti gli effetti la culla, o almeno quella che ha dato il via alla primavera araba. In realtà solo un anno fa, a quanto pare, si rischiava di veder sancito in Costituzione il concetto di complementarietà della donna rispetto all'uomo, voluto dal partito islamico di maggioranza Ennahda. Adriana Frac ha intervistato la presidente dell'associazione Pontes, un'associazione di tunisini in Italia, Ojedane Mejire. Sentiamola. È stato sancito il fatto dell'uguaglianza. Allora, le donne tunisine hanno avuto già dal 59 i diritti eguali a quelli degli uomini, sanciti dal codice della famiglia già da Bourguiba dopo l'indipendenza. Quindi questa è una conferma dei nostri diritti, ma si potrebbe dire che si tratta anche di una vittoria della società civile dinanzi a un governo islamista che poteva mettere a repentaglio questi diritti già acquisiti. Invece siamo molto felici di vedere che questa battaglia è stata vinta e che comunque anche la maggioranza islamista abbia varato questa uguaglianza nei diritti e nei doveri tra uomini e donne in Tunisia. Diverso è il discorso della parità. Esattamente, allora in questo momento abbiamo avuto la conferma dell'uguaglianza nei diritti e nei doveri e vorremmo avere anche la garanzia della parità nell'accesso ai ruoli amministrativi, alle responsabilità politiche, in altri termini chiamati in Italia le quote rosa nella nuova Costituzione. Questa è una battaglia che vogliamo portare avanti perché abbiamo visto che nella legge elettorale, la prima dopo la rivoluzione, questa legge aveva garantito le quote rosa e questo ha permesso effettivamente alle donne di di essere presenti come capolista o come seconde almeno nelle liste, con una presenza attualmente nell'Assemblea Costituente molto significativa del 25% delle donne. Quindi è una battaglia che inizialmente non si pensava, ma con questa rivoluzione ci teniamo a portare avanti anche queste quote rosa nella politica, nelle istituzioni. Questo, che è considerato un successo dalle associazioni femministe tunisine, non soddisfa le organizzazioni per i diritti umani, parliamo di Amnesty International o Human Rights Watch, eccetera, perché lo giudicano riduttivo. E secondo lei ha torto o ha ragione? In questo momento noi stiamo costruendo la nuova Tunisia e credo che non sia facile per persone che hanno vissuto sotto la dittatura immaginare l'oltre. Ecco, ci sono fenomeni che esistono in Occidente attualmente in cui l'uguaglianza viene messa in discussione, per noi sono acquisiti e vanno confermati, ma per queste organizzazioni, ricordo il passaggio dell'articolo che sancisce la libertà di coscienza per la prima volta in una costituzione del mondo arabo, e credo che la nostra attenzione deve spostarsi anche su questo: la libertà di coscienza, la libertà di credo, la libertà di espressione, tutte quelle libertà che ci sono state negate fino adesso. E credo che in questo momento, se abbiamo uguali diritti come donne con gli uomini, a questo punto abbiamo anche dei diritti come cittadini e come cittadine che non ci sognavamo prima dell'11 gennaio del 2011. Ecco, questo è un grande passo per la Tunisia e per i tunisini, ma anche per il mondo arabo, e questo lo sottolineo con grande felicità, perché questi sono i primi momenti in cui stiamo festeggiando i risultati di questa cosiddetta primavera araba. Ed eccoci, questa è l'intervista realizzata dalla nostra Adriana Fracchia. Prima di dare la linea alla viabilità, una notizia battuta da poco dalle agenzie: è una storia che arriva dal Piemonte, 7 ore in viaggio per trovare un ospedale per il parto prematuro dei 2 gemelli, ma uno dei piccoli non ce l'ha fatta. Questo è successo ad Alessandria, la madre era stata trasferita lì in ambulanza da Domodossola, un viaggio di 170 chilometri, riferiscono le agenzie che stato complicato dall'assenza del mezzo del servizio trasporto assistito materno. Era stata portata ad Alessandria per l'impossibilità di altri ospedali a riceverla. Se ci saranno maggiori dettagli su questa storia, che naturalmente andrà approfondita, ve la leggiamo così come la riceviamo, naturalmente ve ne daremo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Job Act, ossia le nuove norme sul lavoro, la proposta di nuove norme sul lavoro, saranno presentate fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, lo ha detto il segretario del PD Matteo Renzi, anticipando che il Job Act si baserà su 3 punti di riferimento. Intanto ha aperto il cantiere di governo, Letta lavora sul patto di coalizione. Investigatori al lavoro nella casa di Caselle Torinese, dove sono stati uccisi un uomo e 2 donne. La scientifica cerca tracce ed è tutto nelle mani della scientifica, perché regge al momento l'alibi del figlio. Sono scattate a Sochi le misure di sicurezza volute da Putin per contrastare il terrorismo. Ad un mese dalle Olimpiadi invernali, 30.000 poliziotti, monitoraggio dal cielo. E dal gelo degli Stati Uniti di queste ore, adesso America 24 con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. In terms of actual temperatures, when you factor in our winds, we have wind chills anywhere from 24 degrees below zero this morning in Belton to 35 degrees below zero in Trenton, Missouri. Il vento, il wind chill, il vento freddo, gelido, beh, devo dire che è proprio questo vento che sta trasformando queste giornate freddissime che abbiamo in America, che hanno un po' paralizzato il paese in delle giornate record. Oggi è la giornata record, potrebbe essere la giornata record per la temperatura più fredda mai registrata negli Stati Uniti negli ultimi 100 anni. Pensate, negli ultimi 100 anni il pronostico di una stazione meteorologica è che questo potrebbe succedere nel Nord Dakota,